diritto, come dire, attiva, bombe, dove giravi, giravi, dove ha saputo durare. Le zone più popolate sono sempre state l'alta doccia e il monte, gli apparati. Le zone più popolose, Coso, Apollotosi, Sant'Edite, le zone popolari. Sopportatore, se c'era la ruota del 12, era una bella graffetta, Piero Alga, tutti quelli di Portatore se parlavano sul 12, avevano detto parecchi professionali. Ce n'erano un bel, Mi dispiace per Portatore perché erano un bel po', c'avevano addirittura il club CB di Porotoves, facevano servizio anche a San Gavino quando c'aveva la gente da Sassari e collaboravano con lui. Noi avevamo nelle ambulanze un baracchino da 27, sempre buscati da me, in ogni ambulanza avevamo un apparato da 27 e più avevamo il VHF per lui. E se c'era qualche incidente, qualche cosa, ci chiamavano tramite baracchino e ci facevano intervenire. Ma come mai non c'è, non muoveva più nessuna stazione fissa a Porto Torres? Ma io uno del satellite l'ho trovato, mi ha detto che ha cambiato casa, quando ha cambiato casa l'antenna è rimasta sempre nella casa vecchia. Non ha più fatto nulla perché dice sai com'è, nei palazzi, un casino, si tocca briaffa, e non ne ha più piazzato. L'unico che è rimasto è Silvestro, però anche lui ha paura che possa disturbare, che poi dice che non c'è nessun sostegno, nel tempo che è un frase, non c'è nessun sostegno per tenerla bene l'antenna, e quindi ha paura che cada, che dia problemi, quindi non ne ha mai piazzato. Si è messo le antenne al terrazzo, alla ringhiera, ma non guarda il coso, antenne grandi non le ha mai messe. Agito, mamma mia, queste in silicone, con le temperature, gli sbalzi di temperatura, il freddo, il caldo, l'acqua, alla fine si arroveggia e dura un bel poco. Invece quello lì c'ha una lunga durata, non ci sono problemi, perché c'era tutto lo spazio intorno a una tegola, che era proprio poco, cosa di millimetri, eppure in mezzo tra un po' dell'altro tutta l'acqua che sgocciolava lassù la lampella cadeva dentro il palo più grosso e faceva la tubo, la cosa, la tubo d'acqua valzia proprio e si aveva l'acqua dentro e c'era messo la bacinella sotto. Adesso non c'è più bisogno di bacinella, tutto Roger Capo. Adesso Io ricordo che stavo procurando il calotta di brutto, lo sai, lo facciamo a posto io. È caro. Ci vuole a casa. Marco stava giocando con l'acqua, lasciato l'acqua in terra. Ma ci vuole a casa, caduta malamente. Meno male non si fa andare molto male, dai, sempre state buone. Non te ne sei accorto. Ma me ne sono accorto perché ci avevo le cuffie, non ho sentito nulla. Si è accorta Manuela. Beh, c'è Marco, c'è Manuela. Oia, non mi manca mai. Adesso c'è è un po' pestata, ma non è niente. Un po' pestata. È caduta come signori, usata. Attento, Antonio Guglielmo. Ascolti il rumore.